Di un po', Marcellus Wallace, che aspetto ha? Da che paese vieni? Cosa? Un paese che non ho mai sentito nominare, lì parlano la mia lingua? Cosa? Lingua, figlio di puttana, tu la sai parlare? Sì. Allora capisci quello sì, che dico? Sì, sì. Descrivimi perciò Marcellus Wallace, che aspetto ha? Cosa? Di cosa un'altra volta? Di cosa un'altra volta? Ti sfido due volte, ti sfido, figlio di puttana! Di cosa un'altra maledettissima volta? La merda. E con questo beat mo attento compa, se arriva l'altro gang qua non sa da fa, come entri troppo zarro per il boom boom pa, così capo da marra da bada boom cha cha boom boom. Motherfucker. Odio i figli di papà più di chiunque altro. Odio i figli di papà quando comprano al parco. Odio te, ma odio anche me stesso. Ogni cosa che non è il mio possesso. Senza ascoltare, odio che i soldi senza lavorare. Odio che i figli e non li ama. Odio la mia ex perché è una puttana. E ti ricordi di noi che eravamo in tanti, insieme a tutti quanti sognavamo i contanti. Ma mangi, sì, ed è la stessa vita, ognuno l'ha affrontata come una sfida. È qua che sono cresciuto, è qua che sono nato, se è qua che ancora vivo, è dove ho sperato di non essere cambiato per avere una chance, per poter combattere ed avere dei fans. Non mi sento adulto, per questo neanche uomo, molte volte è difficile chiedere perdono. Aspetta, com'era? Era una roba... è quello che vince. Ah, hai capito un cavare che c'è scritto viviamo. Vediamo un po' adesso, vai. Questo è quello che facciamo, è quello che spingiamo, è quello che viviamo. Mentre vivi non capisci, noi sappiamo che è. Che succede? Remix, Zic, ho, ho, ho. Taurino, nel posto, hey. Buttiamo nel gesso, chi fa pena. Torino ancora qua, Torino è sulla scena. Non è contro tutto e tutto il tuo clan. Carica, click click bang bang. Buttiamo lì bang bang. Buttiamo nel gesso, chi fa pena. Torino ancora qua, Torino è sulla scena. Non è contro tutto e tutto il tuo clan. Carica, click click bang bang. Circa 12 anni odiavo mio padre. Una vita lavorato, reputato un incapace. Amato da mia madre dal profondo del cuore. Rispettato da tutti per il suo onore. Alla metà lui lavorava già e mi ha sempre detto di guardare più in là. Niente istruzione ma anni di esperienza. Ha sempre lottato contro la demenza della gente. Un uomo intraprendente in fondo al cuore. E anche clemente, lui sente, apprende, lo farà per sempre. Lui e le persone fra nome. Hai perso nei pensieri della grida della gente. Cerco di fare ciò che dice la mente. Schiaccio l'attenzione che la vita mi propone. Ho battuto di tutto, perciò mi chiamo nel campione. È giusto ribatto contro di tutto. A mio parere l'hip hop continua a fare brutto. E sono la Colombia fino all'aldilà. Se mi chiamo nel Marocco sarò il nuovo Allah. Relic Record, New Treat, Sitch, ancora qua, il tuo ricordo. So che il tuo ricordo non scomparirà. So che il tuo ricordo non scomparirà. So che il tuo ricordo non scomparirà. So che New Dream. Hey. Tornato dall'inferno per fare ancora danni. Vi credete grandi, noi sfondiamo i giganti. Colpisco ogni barra per farti male. Non sei il nostro amico e l'attenzione sale. Compare, impara a fare, non a parlare. Parli per non fare, hai imparato a chiacchierare. E sale su. Lo sai perché sei per me. Uscito da incubi duri impressionanti. So di essere uno tra i tanti che l'hanno trovato appena in un momento, quando tutto intorno ormai era spento. E ora sto bene, penso sempre a lei. E tu mi piaci per quello che sei. Avevo da leggere il libro per la scuola. Lascio perdere, penso a una persona sola. Se te baby. Non ce ne sono amici nella vita. Se bisogno hai la più stronza delle dita, allora la partita è finita e me ne fotto. Io continuo con il mio cuore rotto. Stronzi e bigotti, i miei miti. Io vi dono passione, voi falsi sorrisi. I vostri fottuti modi da snob. Di mettere la testa nei quartieri hardcore e a fare gli infami, bro. Qua non ce n'è, fanculo voi e il vostro gangsta rap. Parla. Al beat ma Sitch. Questa traccia è la più grassa, la tua non passa. La guardi e la testa ti fracassa. E guasta la cassa, il tuo rap è una falsa. Il mio clan ti sorpassa e ti devasta. Non cago stile al chilo ma l'ho cagato nell'ate. Mi spotti in un disco ma sei un incapace. Non mi piace e vuoi fare pace. Ti sto Si può fare. Sento come un lampo e di questo me ne vanto. Che appena ti volti io ti rubo tutto quanto. Perfetto, perché non ho un complesso. Tu hai il complesso di non essere perfetto. Prendo fiato, prendo tempo, è quello che posso. Ai tempi di non cedo, fottevi col tipo losco. La mia donna ha un cervello, a te fa paura. La tua donna ha un uccello da far paura. Quando mi hai lasciato ho capito tante cose. Prima tra tutti sei puttana con le poche. Non mi fermi perché sogno anche mezzo secondo. Le che gli hai nel freestyle è testa di piombo. Hey, ciao, bimba come stai? Dimmi cosa vuoi che da me lo avrai. Hey, ciao, bimba come stai? Dai vedrai che non ci lasceremo mai. Hey, ciao, bimba come stai? Dimmi cosa hai fatto oggi che ti ascolterò. Hey, ciao, bimba come stai? Devo dirti una cosa, sai? Te sei brillante come una... Hey, ciao, bimba come stai? E tu lo sai. Ehi, scusami. E cerco di descriverti. Sei così bella che non riesco mai a decidermi se parlarti o... Decidermi se parlarti o rimanere a guardarti. Sembri così dolce e diversa dagli altri. In questo istante sto perdendo lacrime. All'ora di rime riempio le mie pagine di pensieri. Saranno inutili parole che scriverò. Di smetter di sognare, no, non lo farò. E no, lady, che non ci penso più. Ma da solo, baby, non so tirarmi su. I problemi non mi voltano le spalle. Le tue emozioni volano via come farfalle. Ma volano, volano via da me. Ma volano, volano. E chissà il perché. Mi pento.